Salve da Radio Big World, la radio che tratta di tutto, per tutti, su tutto. Oggi vi racconto la vita di una persona, a parer mio, molto importante nel mondo tecnologico in cui viviamo, di un ingegnere che si chiamava Nikola Tesla. Il motore della sua lavatrice, il tornio dell'officina meccanica, il tuo frigorifero hanno e funzionano per un brevetto di Nikola Tesla, che è nato in Croazia nel 1856. Era figlio di un prete ortodosso, quindi vuol dire viveva in una famiglia di buona cultura, e il padre voleva che seguisse le sue orme, cioè che rimanesse nel mondo ecclesiastico, perché era un mondo molto colto e al loro punto di vista anche utile per vivere bene la vita di tutti i giorni. Tesla, Nicolò, non accettò l'idea del padre di vivere un'esperienza religiosa, ma sentiva che lui era fatto per entrare, parlare, scoprire nel mondo della scienza. Allora si dedicò al mondo scientifico e ne è venuto fuori un ingegnere, un grande ingegnere, originale anche nel suo pensiero. Per esempio, nella sua vita diceva che aveva una memoria prestigiosissima e così ricca che quando lui progettava, realizzava un'idea che aveva intuito si potesse realizzare, vedeva attraverso la sua memoria e la sua fantasia il crearsi passo passo dell'opera che stava studiando e realizzando. Non solo, le modifiche che faceva nel corso dello sviluppo erano così chiare che, ad esempio, se era meglio mettere una vite lì o là, non lo vedeva dopo aver realizzato l'opera, ma durante la sua creazione, utilizzando memoria e fantasia, decideva quale era e quali risultati avrebbe prodotto una modifica eseguita in un modo o in un altro. E letteralmente diceva: la mia fantasia mi permette di vedere in tutti gli oggetti i loro dettagli. E l'oggetto che sto progettando, ancor prima che sia materialmente realizzato, io lo vedo nella sua interezza e nella sua funzionalità. È dotato anche di particolari capacità sensitive che non so come definire. Vi leggo soltanto le sue parole, che forse non sono comprensibili a tutti, ma a qualcuno sì. Lui dice: ogni notte e qualche volta durante il giorno inizio a viaggiare, vedendo nuovi posti, nuove città, nuove nazioni, nuove persone, ogni notte durante il sonno e qualche volta durante il giorno. Incontro realtà nuove con cui successivamente intrattengo relazione. È una cosa, non è assolutamente comune. E poi c'è un altro aspetto bello che mi ha entusiasmato di questo uomo, di questo scienziato, di questo ingegnere. Quando racconta che fin dall'infanzia, anche per l'educazione ricevuta dal padre e dalla madre, dice: io mi sono sentito costretto a concentrare la mia attenzione su me stesso principalmente. Questo mi ha procurato sofferenza, ma successivamente ho imparato a apprezzare nella vita l'inestimabile valore dell'introspezione. Due flash per capire un pochino chi è quest'uomo. Studia all'Università di Graz in Austria, perché la Croazia era sotto l'Austria nel 1850, poi studia a Praga. Non sappiamo se abbia conseguito o no la laurea in ingegneria, perché le notizie sono incerte, ma questo non ha importanza. Nella sua vita, che si svolgerà negli Stati Uniti d'America, riceverà tantissime lauree honoris causa, perché ovviamente il suo pensiero, la sua attenzione, la sua produttività davano adito a risultati come quelli che si raccolgono dopo aver conquistato una laurea o altro. Dalla Croazia si trasferisce e lavora a Budapest, e poi nel 1884, quindi ancora molto giovane, a Parigi, e dopo qualche anno va negli Stati Uniti, che diventa la sua patria adottiva. E lì vivrà tutto il resto della sua vita fino al 1943, quando all'età di 86 anni conclude il suo ciclo vitale su questa terra. Vi racconto di qualche invenzione di questo genio bizzarro. Le sue invenzioni sono tantissime. Nel 1893 brevetta, quindi vuol dire realizza e descrive con esattezza, un sistema di comunicazione senza fili. Ricordate, la radio ancora non era stata inventata. Successivamente ipotizza di produrre energia elettrica sulla terraferma per far navigare senza alcun collegamento navi e aerei. Siamo alla fine del 1800. Perché secondo lui c'è un principio importantissimo, che è la sincronizzazione nel mondo dell'elettricità, quindi la sincronizzazione di circuiti oscillanti che lavorano insieme, e l'utilizzo del globo terrestre come conduttore, filo di rame, conduttore su cui far circolare la corrente elettrica. Questo però rimane uno studio senza realizzazione pratica, anche perché a un certo punto la sua vita, come quella di tutti, finisce, e i suoi studi e esperimenti lo stesso. Negli Stati Uniti d'America, all'inizio del Novecento, c'è una grande disputa tra due forme di pensiero, tra due capitali, tra due potenze economiche, che sono Edison e Westinghouse, e l'argomento di contrasto, di contrapposizione, è l'utilizzo della corrente elettrica in gestione di corrente continua o di corrente alternata, che vuol dire in due parole: la corrente continua è quella della batteria dell'automobile, il flusso elettrico parte dal polo denominato più e va verso il polo denominato meno, con continuità e con costanza, e nel suo fluire attiva il motorino d'avviamento, i fanali, tutto quanto. Questa qui è la posizione di Edison, che si impegna a costruire delle condotte di tensione in corrente continua per far funzionare apparecchiature nell'industria, nelle fabbriche, eccetera. Tesla è dell'idea invece di Westinghouse, che punta tutte le sue risorse sull'utilizzo della corrente alternata. Cos'è la corrente alternata? Pensate alla spina della nostra bajur, che inserita nella presa prende l'energia da un filo, da uno spinotto, la fa circolare nella lampada e la riporta nell'altro spinotto. Mentre prima si parlava di poli più e polo meno, nella corrente alternata si parla di fase e di neutro. Tutti se ne è sentito parlare che della fase, perché è quella con cui si accende il famoso cacciavite con la lampadina dentro. Insomma, chi ha toccato un po' di questo mondo lo conosce benissimo, chi non l'ha toccato forse ha visto e ha sentito parlare ugualmente della fase. La corrente alternata che fa? Dalla fase nasce un impulso di corrente che va a finire nello spinotto del neutro dopo aver lavorato. Però un attimo dopo che è partito questo impulso, chiamiamolo positivo, dalla fase parte un altro impulso che è negativo, fa il lavoro nella lampadina di cui parliamo e ritorna nel neutro. Cioè, nella corrente alternata ogni secondo ci sono 50 impulsi differenti, quindi o positivi o negativi, che si alternano e fanno funzionare il sistema a cui la corrente alternata è collegato. Dicevamo che Tesla si schierò e operò, lavorò, ricercò insieme a Westinghouse sulla corrente alternata e lì con quel sistema realizzò il motore polifase a campo magnetico rotante. Che vuol dire? Un motore è costituito da uno statore, da qualcosa che sta fermo su cui circola la corrente, e da un rotore che è qualcosa che gira, che poi fa funzionare il motore del torno, il motore del frigorifero, il motore del frullatore, quello che si vuole. Allora lui riuscì a realizzare un rotore, cioè la parte che gira dentro al campo magnetico, trascinato dal campo magnetico rotante prodotto dallo statore, inserendo questo cilindro costruito in maniera opportuna, appoggiato su dei supporti, dentro allo statore. Questo qui cosa significa? Che non c'era bisogno di nessuna manutenzione per far funzionare quel tipo di motore. Infatti il nostro frigorifero va avanti anni e anni e anni senza che ci sia bisogno né di cambiare una spazzolina né di fare una manutenzione al motore, niente, perché utilizza il principio del motore polifase, come dicevamo prima, e con un rotore che non ha bisogno di collegamenti elettrici. Si potrebbe ancora parlare da un punto di vista tecnologico di tante altre scoperte fatte da Tesla, ma il tempo che ci abbiamo è questo e lo dobbiamo utilizzare nei suoi limiti. Io vi rammento alcune ricerche importanti che questa grande personalità scientifica ha fatto, a cui si è avvicinato. Per esempio ha studiato e perfezionato la produzione dei raggi X. I raggi X sarebbero quelli che vengono utilizzati quando ci fanno, non so, la lastra ai polmoni, per intendersi. Poi Tesla ha studiato molto anche le correnti alternate a alta frequenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che la corrente alternata di cui parlavamo prima, che è a 50 Hz, è una frequenza bassissima. Lui ha studiato invece gli effetti della corrente alternata che funzionano su un livello di frequenze elevatissimo, cioè milioni, miliardi di inversione di polarità al secondo. E nella sperimentazione, per esempio, si è reso conto che producendo in maniera opportuna queste correnti a alta frequenza, queste correnti viaggiano sulla superficie dei corpi, per cui il corpo umano, anche se investito da una tensione di migliaia e migliaia di volse, però a alta frequenza e con certe caratteristiche, non viene assolutamente disturbato da quella corrente, perché quella corrente passa all'esterno e non all'interno degli organi del corpo umano. Non si può andare più avanti su questo concetto. Per esempio, un'altra cosa importante che lui ha studiato è la produzione di luce tipo i nostri tubi al neon, ecco, cioè senza utilizzare una resistenza elettrica all'interno, ma attraverso la ionizzazione e altre tecniche specifiche per cui funzionano i tubi al neon. Ha studiato anche e realizzato questa volta una imbarcazione radiocontrollata. Siamo agli inizi del Novecento, però per motivi vari, anche di carattere politico, questo studio non è andato a buon fine, perché il suo pensiero era che questo mezzo potesse servire all'esercito, ma l'esercito, ripeto, per motivi vari, ha trascurato questo interesse. Ha studiato l'elettricità atmosferica, i fulmini. Con le sue macchine ha riprodotto dei generatori capaci di creare i fulmini. Il fulmine, che è una scarica di corrente che avviene, in genere quelli che noi vediamo sono questi, tra le nuvole e la terra, oppure tra nuvole e nuvola, e sono quelle lunghissime scintille che, in relazione alla lunghezza che hanno, hanno nel contempo un potenziale elevatissimo. Allora lui è riuscito a generare in laboratorio scintille di oltre 40 metri, 40 metri di lunghezza, che significa è riuscito a realizzare un potenziale, cioè i volse, a livello di milioni e milioni di volse, una cosa fuori del nostro pensare comune. Considerate che la nostra rete elettrica funziona con circa 230 volse. Questo signore utilizza, per fare degli esperimenti, milioni e milioni di volte. Ora qui sarebbe interessante poter accennare anche a tutto quello che lui, oltre a questi campi visti, ha studiato e progettato. Sarebbe interessante parlare delle sue peripezie giuridiche per il riconoscimento dei brevetti, ma non ci compete in questo momento. A noi basta ricordare questo genio fondamentale per la comprensione degli studi attuali sull'elettricità, fondamentale per l'utilizzo delle tecnologie nella civiltà moderna. Ci interessa ricordare e stimolare l'interesse a avvicinarsi a questa persona eccellente, Nikola Tesla, nato nel 1856, avvicinarsi a questa persona eccellente sia attraverso la carta stampata che i siti su internet che parlano di lui. Vi ringrazio dell'attenzione, come sempre, se interessa confrontarsi, lo possiamo fare attraverso Radio Big War, e buon tutto da Radio Big War.